questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, Web TV, Social TV. Per questo mese di agosto vi lasciamo in compagnia degli incontri più divertenti, interessanti, appassionanti delle ultime settimane, ma torniamo presto e potete sempre stare in contatto con noi attraverso i nostri account di Twitter @MartaCagnola e @DiBellasio e con l'hashtag Cancelletto Radio Tube. Ecco la nostra puntata di oggi. Cari amici, voglio dire grazie a voi. Siete stati questa sera qui con noi. Allora, la canzone era Quando dico che ti amo, ma questa era stata rivisitata da Mina, che aveva i al quattro moschettieri. Allora, quattro... vediamo se me li ricordo. Sì. Enzo Tortora. Bravo. Mike Buongiorno. Bravo. Pippo Baudo. Sì. Corrado Mantova, che mi... cioè la storia della TV italiana, del varietà italiana, ma anche molto di più, più Mina, più tutto, stupendo. Allora, bellissimo. E quando noi parliamo di storia, sì, abbiamo sempre un ospite, sì, lo chiamiamo ripetutamente, non sarà da solo in questa mezz'ora di RadioTube, ma lo chiamiamo subito in causa, certo, relatore della mia tesi, sì, il mio professore, diciamolo. Professor Giorgio Simonelli, buonasera. Buonasera. Buongiorno a tutti. Eh beh, professore, abbiamo studiato tanto sto varietà, l'abbiamo studiato tanto. L'abbiamo studiato tanto perché è stato uno dei generi fondamentali della storia della televisione italiana. Lo sapete, la televisione italiana è nata attorno al varietà ed è cresciuta attorno al varietà. Soprattutto è cresciuto il linguaggio televisivo, cosa che spesso si dimentica. La televisione ha trovato il suo linguaggio anche proprio come tecnica di costruzione dello spazio televisivo, come costruzione di un tempo televisivo, oltre che dei personaggi. È cresciuta più attorno ai generi bassi che ai generi alti, soprattutto attorno al varietà. Lo zoom, poi ovviamente il colore, ma i movimenti di macchina, tutte queste cose si sono sperimentate soprattutto nell'ambito del varietà. Si dice sempre però che i varietà erano bellissimi perché se ne faceva uno alla settimana, si provava tutti i giorni della settimana e alla fine il prodotto era perfetto. C'erano dei registi pazzeschi. Questo lo sanno ormai tutti, per fortuna, no? Tutti hanno capito che se si fa la televisione provando, pensandoci, avendo tempo a disposizione, la televisione è più bella. Ma c'è un'altra cosa. Quei varietà erano molto belli perché c'era un regista, erano opere di registi soprattutto, i varietà di Falqui, e questo si è un po' perso, oggi non ci sono più registi televisivi. Io guardo, come tutti gli italiani, spesso Te che te. Eh sì, abbiamo anche ospitato uno degli autori perché non, siamo affezionatissimi. Se voi guardate davvero bene Te che te, vi accorgerete di una cosa. Non è mica vero che quei comici tutti facevano tanto ridere. Sì. C'era della comicità spesso banale. Non è vero quello che si dice, che dice la vulgata comune, quella televisione era bella perché era più elegante, perché i comici erano più bravi. Quella televisione era più bella perché c'erano dei registi, perché se voi guardate Te che te, vedete il lavoro sul colore, inteso sul bianco e nero per intenderci, sulle sfumature, la scelta delle inquadrature, i movimenti di macchina, la precisione dei campi e dei piani, quella era il vero pregio di quei varietà, molto più della qualità dei comici. Chissà se è d'accordo il nostro altro ospite che è al telefono con noi, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, buongiorno, intanto professore. Buongiorno, direttore. Sono stati colleghi, uno è stato capo dell'altro e non diremo diciamo chi è stato capo di chi. Esatto. Non lo diremo. No, niente, niente, segreto. Però no, se uno è direttore. Vabbè, capito. Allora, quello che sa di gerarchie redazionali dice subito se uno è direttore. Ma che cattivo. No. Vabbè, comunque diciamo che io sono d'accordo col professore, quindi uno può capire anche quale fosse il rapporto gerarchico. No, sono d'accordo col professore, però anche avrei un'altra cosa da dire. Non sono tanto d'accordo sulla qualità dei comici, perché secondo me era molto alta la qualità dei comici, anche se è vero che magari non tutti facevano proprio ridere di per sé. Però c'è un altro aspetto oltre a quello delle prove, perché anche oggi secondo me si prova uno spettacolo a lungo, no? Non è detto che il varietà di oggi sia improvvisato sul momento. C'era il fatto che i varietà di una volta, secondo me, contenevano tante cose diverse. E perché questo? Perché, almeno secondo me, perché c'era, diciamo, un palinsesto più aperto, una necessità anche di fare programmi così non necessariamente targetizzati, come si dice oggi, su un particolare tipo di pubblico, e quindi dentro un varietà c'erano 30 cose diverse. Oggi c'è il varietà come genere specifico, è quasi... I format hanno ucciso il varietà. Altro, il varietà è stato come diviso in tanti piccoli sottogeneri, no? Sottogenere del talent, il sottogenere dello spettacolo comico alla Zeligo, alla Colorado, cioè è stato preso dal varietà, che era una specie di, oggi si direbbe, un contenitore di generi, e sono stati presi tanti spunti che sono diventati a loro volta dei generi televisivi, più che format proprio dei generi televisivi. Quindi noi, quando vediamo un grande show come quello a cui accennavate voi all'inizio, Marta, i quattro moschettieri con Mina, quella cosa lì era proprio il fatto che ci fossero quattro personaggi di quel genere che rappresentavano quattro televisioni un po' diverse l'una dall'altra, no? Perché c'era Corrado, la televisione più familiare, magari meno varietà e più appunto rapporto diretto con la gente, Pippo invece super varietà, Tortora quasi quello, come dire, giornalistico, sì. No? Quindi non a caso, ora, a parte quella gag precisa lì con Mina, quelle lì erano le quattro facce del varietà. Oggi quelle quattro facce sono in quattro programmi diversi, secondo me. Facciamo una brevissima pausa perché è il momento del traffico. E ci ritroviamo tra pochissimo ancora col professor Simonelli e con Aldo Vitali, ancora per chiederci se il varietà è ancora cosa resta del varietà. Tra pochissimo. YouTube. E ci ritroviamo insieme dopo il traffico perché abbiamo deciso mezzo del varietà. Come mai ti è venuto in mente, Daniele? Perché l'idea di Daniele di parlare del varietà? No, perché la mia tesi è che il varietà è in crisi un po' più, ovviamente per quello che è stato detto, anche perché io non sono un esperto in tecnico, però il varietà nella nostra giovinezza era l'evento di una sera, cioè io ho iniziato ad andare a letto un po' dopo il sabato, quando c'era premiatissima o risatissima. Ah, non l'aria del sabato sera, fantastico? Fantastico, quello con Renato Zero, anche, brava, forse è più quello ancora. Quindi il fatto che la televisione di oggi in realtà non esista più in quanto evento di una sera o evento di un momento, ma esiste io MySky, oppure io YouTube, oppure io le Teche Rai, sono pezzi di televisione che io rimetto assieme. Invece una volta il varietà, conteneva tante cose, anche perché era l'appuntamento di una sera. Portobello, per dire, no? Portobello era, che non so, si può catalogare tra varietà? Professor Simonelli, Portobello è un varietà? Portobello è il primo programma che supera il varietà, insomma, ci sono in Portobello un programma fondamentale nella storia della televisione, è l'inizio di una nuova televisione, ha dentro tutti questi elementi, il fatto che non sia più un varietà con i pezzi canonici, il balletto, la musica, il comico, e soprattutto è il people show, cioè il fatto che il divertimento viene da personaggi che non sono personaggi dello spettacolo, ma sono persone comuni, che poi è la grande frontiera di tutta la televisione degli anni successivi. In questo è un'antivarietà. Certo che insomma aveva anche le componenti di varietà, nel senso che mescolava, come diceva prima Aldo Vitali, mescolava cose diverse, personaggi diversi, figure diverse, aveva questa struttura del varietà, ma una prospettiva che andava in tutt'altra direzione. Offro soccorso rapaci, cerco storia del corallo, cerco opinioni spassionate. Tre i protagonisti, anzi quattro, ma tante storie e tante illustrazioni. Può essere considerato stasera Portobello un grande libro illustrato. Incominciamo dal primo inserzionista. Siamo partiti con i quattro moschettieri. Uno dei quattro era più giovane, perché Corrado, Enzo Tortora, Mike Bongiorno, ma Pippo Baudo poi è quello che traghetta il varietà verso gli anni 80 e anche gli anni 90. Direttore Vitali, i tuoi lettori amano ancora Pippo Baudo. Oggi è una figura che amatissima dai nostri lettori, perché sono arrivati anche a noi tanti auguri, tanti biglietti d'auguri da girare poi a Pippo, quindi abbiamo questa sensazione. Però come la stessa sensazione che ha Pippo è che è stato un po' dimenticato. Tutta una serie di, chiamiamoli, anche se Pippo, voglio dire, non amerà questa definizione, però questi grandi vecchi, in senso non anagrafico ma di carriera, mettiamola così, della TV italiana, come lui, come avete citato prima Antonello Falqui, per esempio, sono persone che possono creare come un'accademia che aiuti la televisione a evolversi grazie alla loro esperienza e alla loro genialità. Perché noi oggi pensiamo a Pippo Baudo come la tradizione della TV, ma Pippo è stato un grande visionario e un grande innovatore, un grande visionario, perché ha inventato il talent, perché Sette Voci era un talent, per esempio. Sullo stesso Festival di Sanremo lo ha praticamente distrutto e ricostruito sul concetto diciamo di ipercontenitore di generi, che invece prima era una gara di canzoni. Sì, anche perché poi era morto praticamente il Festival di Sanremo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Esatto. Quindi lui è un grande visionario, è uno che ha preso 2 anni fa e ha fatto il Giro d'Italia e ha, guarda caso, fatto una puntata memorabile con Checco Zalone, quindi è uno che è molto attento a tutto quello che succede, no? Poi la percezione che si ha di Pippo è di una TV del passato che oggi non ha più niente da dire, perché oggi c'è Cattelan. Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti alla prima serata. Questo festival è truccato! Per piacere. Questo festival è truccato, lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali! E dai, e ci siamo un'altra volta, dai! Buonasera a tutti! No, a questo punto qualcuno penserà che questo signore sia un mio scritturato. Io vi confesso che le cose non stanno così. È purtroppo un pazzarellone che si accompagna a noi quando facciamo queste manifestazioni in diretta, però la vita è bella perché varia e anche queste cose rendono divertente e inaspettata una serata, no? Professor Simonelli, tu dalla tua cattedra, che guardi disincantato la TV italiana, dare da questo del punto... tu al proprio professore. No, però abbiamo deciso che io gli do del tu, ma lo chiamo professore. Ah, va bene. Anche perché mi sono laureata qualche anno fa, quando sarà 2 o 3 anni fa che mi sono laureata. Con o senza il problema è se posso io dare del tu. Esatto. Ecco. anche se durante il corso di studi davi del tuo al professore, o meglio, il professore si faceva dare del no, tuo. No, corso di studi serissimo, e poi dopo abbiamo deciso che saremmo passati al tu, però continuando a chiamarlo professore. Vabbè. Voglio sapere, guardando appunto col tuo sguardo così disincantato da docente, la situazione dei conduttori italiani adesso, tu come la vedi? Ma sai, tutto sommato neanche male, perché io direi che se c'è una cosa che non manca nella televisione italiana, che se ne dica, sono figure di conduttori, perché sia da una parte in Rai, sia dall'altra, sia anche nelle TV della nuova generazione, di conduttori ce ne sono. E quello che manca forse sono i programmi, sono le idee di programmi, che forse gli bisognerebbe darsi un po' più da fare, avere un po' più di fantasia. Però molto si parla di un programmino che a me piace molto, no? Che è l'edicola di Fiorello. Certo. E lì, che cosa c'è lì sostanzialmente che funziona? Che funziona, c'è un conduttore che poi fa quello che si diceva anche di altri conduttori, di Arbore, di Baudo, no? La figura del puparo, di quello che fa il teatrino dei pupi. Poi possiamo fare nomi e cognomi, insomma, anche in ambiti che stanno a metà tra la cultura, l'informazione, l'intrattenimento. Il programma di Fazio quest'anno è andato benissimo, insomma, e Fazio fa sempre più il conduttore, mi sembra, del suo programma. Mi sembra che i conduttori non manchino, persino nei talk show, no, di cui abbiamo parlato un'altra volta, verissimo, se ricordo bene, e della crisi dei talk show. Non è che i talk show sono in crisi perché mancano i conduttori ci sono e sono bravissimi. Buongiorno. Il varietà si può fare anche di mattina. Spiegalo, allora, Edicola Fiore, basta. Per fare il varietà oggi, che poi è il karaoke alla basta fine, questo, 25 anni fa il karaoke si faceva col televisore, adesso basta un telefonino. Questo. Una cassa Bluetooth collegata. Una base che parte. Fa così, guarda. Sì. Ovviamente per fare il varietà di mattina è meglio se si ha un telefono, una cassa e il più grande showman italiano che ha intenzione di cantare una canzone dal vivo. E sentite cosa viene fuori. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the Peter. Via Flaminia. Senti che roba. She never can lay. Rosario Fiorello in diretta in via Flaminia. She never bought. Adesso è il momento per farvi la domanda. Chiedo a tutte e due se il varietà è vivo o se è morto, perché questa è la preoccupazione. Esatto, perché la preoccupazione che ha, vabbè, che ha accompagnato Daniele Bellasio, la domanda del giornalese, ma la dobbiamo fare. Con dai, chi cominciamo? Professor Simonelli. Se è vivo o è morto il varietà? Sì. No, il varietà non è morto, quello che non c'è più è il varietà canonico con le sue componenti fisse, che erano l'ospite d'onore, il cantante, il balletto. Il corpo di ballo, mi manca il corpo di ballo. Questo manca un po' anche a me, però in realtà se poi andiamo a vedere dentro ad alcuni varietà nuovi, insomma, un qualcosa di ballerino c'è, non il corpo di ballo, ma qualcosa di simile al balletto c'è. Io credo che il varietà abbia lasciato un'eredità così forte che non si può certo dire che è morto. Direttore Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Io ribadisco che il varietà nella sua forma, diciamo, storico-tradizionale, secondo me non esiste più. Esistono appunto tanti tipi di varietà, tante derivazioni dei varietà, noi possiamo chiamare varietà molti tipi di programmi, molti anche quasi generi televisivi, però per esempio quest'anno c'è stata una cosa secondo me abbastanza interessante, cioè lo spettacolo della Pausini e della Cortellesi, quello era proprio quasi filologicamente un varietà. Come è andato? La prima puntata ha retto, la seconda puntata ha fatto dei buoni ascolti ma ha retto meno rispetto a quella, alla prima, e poi è finito perché il varietà fatto in quel modo lì non ha probabilmente il fiato per reggere 8 puntate. Quindi diciamo che quindi è vivo, ma per sopravvivere è cambiato un po'. È cambiato un po'. Grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Giorgio Simonelli, grazie al direttore Aldo Vitali. Vi rapiamo ancora, vi chiamiamo ancora, alla prossima. Alla prossima, e dopo una piccola pausa saliamo proprio nell'Olimpo del varietà attuale. Della conduzione. Sì, a tra poco. Con un grande ospite. Ciao, dopo. Voglio la zanzara, voglio la zanzara, oh, ma quando torna la zanzara? tutta l'estate che mi ascolto il podcast, tutte repliche, ma quando cazzo riniziate? Oh? Scandaloso, perfino lo zingaro all'incrocio è tornato a lavorare. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara, fra poco di nuovo in onda. Ciao, sono Enrico Ruggeri, parte un'altra grande stagione di grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Hanno tracciato una via nuova al rock e hanno scritto un inno che è entrato in tutti gli stadi, i White Stripes. La vita difficile di una grande donna, madre e moglie di campioni di Formula 1, Joanna Villeneuve. Un nobile dandy che ha vissuto con i grandi del rock, Stash. Un allenatore diverso dagli altri, lo chiamavano il filosofo, Manlio Scopigno e l'avventura del grande scudetto del Cagliari di Gigi Riva. La vertiginosa ascesa del cuoco più odiato dei talent, Gordon Ramsay. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Good morning. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Radio Tube. Questa volta, caro Daniele, ci facciamo un regalo. Lo facciamo anche agli ascoltatori, sì, ma intanto ce lo facciamo da noi. Noi ce lo facciamo. Eh sì, perché possiamo parlare di televisione, ma anche di radio, con un grande. Allora, lui è un maestro della radio, sì. Un grande personaggio della televisione che soprattutto ha avuto in questa storia del varietà un ruolo molto particolare. Noi quando abbiamo pensato a un ospite al quale dedicare un approfondimento, ci è venuto subito in mente, sì, lui, perché vabbè, dai, adesso lo salutiamo subito, sì, così lo capiscono immediatamente i nostri ascoltatori. Buon pomeriggio, buonasera, a quest'ora quello che preferite voi, a Gerry Scotti. Ciao Gerry. Grazie, io direi con queste belle parole può bastare così. Siamo alla prossima occasione. Io colgo l'introduzione e me ne vado. Questo è un colpo da varietà, vero? Vedi. Gerry, ma te lo saresti mai aspettato di diventare una parte della storia del varietà? Perché finisci sul libro di storia è un casino, eh? Mamma mia, sì, ma non fosse altro per militanza. No, da ragazzo, quando ero ammiratore del genere, come si suol dire, cioè quando guardavi varietà in televisione, e sono costretto a dire, visto che state facendo tracce storiche, ascoltavo il varietà alla radio, perché la radio ha anche questa grandissima pregio di aver portato nelle case degli italiani, ma poi ho scoperto informandomi in giro per il mondo, nelle case di tutto il mondo, il varietà, ancor prima di altri generi che poi insomma si sono impossessati della radio. Ebbene, quando io ero un ascoltatore o un telespettatore del varietà, non avrei mai immaginato un giorno di poterne condurre uno, ecco, e quindi no, è stato un altro miracolo che è avvenuto nella mia vita. Come sia avvenuto non chiedetemelo, perché sono cose sempre molto, molto casuali. Beh, sono le sliding doors, si aprono, si chiudono, non sappiamo bene. A te cosa piaceva quando guardavi la TV? Ecco, sì, stavo arrivando a quello. Io sono figlio di una generazione, il mio papà e i nostri nonni, insomma io compio 60 anni quest'anno, quindi fate voi i vostri calcoli. Ah, che bell'anno, un bravo ragazzo del 56. Siamo io e lui. Due belloni, sì sì. Sì, ciao, va bene. I nostri nonni, i nostri papà venivano da un'altra forma di cui probabilmente gli storici che voi andate interpellando vi avranno parlato, che è la rivista. La rivista in quel del teatro, soprattutto in epoca di grandissima povertà, di scarsità di mezzi, anche di roba da mangiare, ha creato i ruoli, ha creato il presentatore, ha creato la bellona, ha creato la soubrette, ha creato il comico, ha creato il capo comico, ha creato la macchietta, ha creato la spalla, che poi sapete bene che importanza hanno avuto le spalle nella commedia italiana, nel cinema, eccetera, eccetera. Quindi non ho potuto usufruire di questa prima parte della storia, perché quando eravamo ragazzi noi stavano chiudendo tutte le riviste, insomma, smettevano, non c'erano più. Grazie a Dio la radio aveva al sabato mattina, alla domenica mattina, dei varietà meravigliosi con Alberto Lupo, con Mina, con Alberto Sordi, con Bice Valori, con la Mondaini e Vianello, con Tognazzi, con Johnny Dorelli che faceva Dore Grande. Insomma, ragazzi, uno che è cresciuto ascoltando quelle cose lì poteva sognare a occhi aperti, tanto diceva a me non capiterà mai. Dopodiché abbiamo avuto modo nella scatola in bianco e nero di vedere i grandi varietà, quelli con Mina, quelli con mi tocca ripetere quasi i nomi che ti dicevo per la radio, perché poi erano talmente bravi che dalla radio li hanno richiamati in televisione, ma lasciatemi aggiungere anche Paolo Panelli, lasciatemi aggiungere anche Gino Bramieri, che meraviglia celebrare con voi, perché secondo me l'hanno sempre poco celebrato, ma era un maestro. Raffaele Piso, dai, adesso sì, ditemene voi quanti più volete. Ecco, no, io ne direi uno, Jerry, che tra l'altro anche lui ha iniziato con la radio, cioè il più grande presentatore, insomma, della TV italiana è stato Mike Buongiorno. Mike Buongiorno però diceva sempre che aveva un solo erede, Jerry Scotti. Ma non ci posso credere, ma ci sono tracce, c'è un nero bianco. Ci sono tracce, abbiamo testimoni, ma questo lo diceva, immagino per lo stile di conduzione, ma anche per la capacità, immagino, di inserire il quiz, quindi il varietà intelligente si mischia. Questo è un altro capitolo. Noi di questa generazione, tutti figli di Mike, di Pippo Baudo e di Corrado, perché adesso poi noi siamo tutti dei rampolli, abbiamo tutti 60 anni nel frattempo, ma siamo tutti figli di, e non aggiungete altro per favore, di Mike. Noi siamo stati costretti a cambiare un po' la rotta, perché ahimè, viva il varietà, muore il varietà, lunga vita al varietà, ma i varietà, quelli di una volta, quelli del sabato sera, quelli con i ruoli, non si fanno più. E quindi abbiamo dovuto cercare di mettere un po' di varietà, un po' di spirito, un po' di allegria, un po' di colore, un po' di trovate, di momenti inaspettati, anche in altri generi spettacolari. Io personalmente penso, proprio su sprone, su invito e su elezione di Mike, di esserci riuscito nel settore del quiz e del game, chiamatelo un po' come volete, che di suo, siamo sinceri, io mi metto anche dalla parte dei detrattori, insomma, di suo può essere anche un po' noiosino e un po' ripetitivo, perché vuol dire, io adesso con caduta libera cosa faccio? Dovrei ufficialmente leggere solo delle domande. Come mai uno che lo guarda, invece che vedere uno grande e grosso di Pavia leggere delle domande, ha l'impressione di vivere un po' in varietà? Perché ci abbiamo messo le luci, i suoni, i colori, i sapori, i personaggi umani, anche la scelta dei concorrenti, perché io non mi limito a leggere quello che c'è scritto sul gobbo o sul computer, ma ci metto le mie considerazioni. Ecco, questo è diventato anche in altri generi un nuovo modo di fare varietà. È una puntata speciale, talmente speciale che appena caduto nella botola Celentano, ma al centro come campionessa abbiamo addirittura Mina! Grande Mina! 50.000 euro di Montepremier. Sì. Allora, permettimi, Mina, so che ci tieni, salutare tutta l'associazione dei sosia italiani, eccoli là! seduti, c'è anche la presidente. Buonasera a tutti. Ciao Liz. Ciao Jerry, ciao, al tuo meraviglioso pubblico. Quanti anni che ti vedo, sei sempre bella uguale. Speriamo di andare avanti altri tanti. No, no, è per anni. Bacco. Va lì, c'è quello dei Pooh, è forte, eh? Sì, Roby Facchinetti. Sì, Roby, La tua generazione ha avuto la fortuna di trovarsi, ma anche la responsabilità di trovarsi in due snodi storici importantissimi: la nascita delle radio pirate, libere, poi private, pirata, poi libera, e poi la TV commerciale. Sì. Quindi un momento magico, veramente una congiunzione unica che però era da sfruttare. Tu ti sei trovato a dover inventare dei ruoli. Sì, sì, hai ragione. Forse sono stato al momento giusto, nel posto giusto. Però anche bravo a inventarlo, adesso diciamolo. Siamo stati un po'. È stata una generazione di bravi, ma di bravi nel senso manzoniano. Cioè, anche gente un po' con il pelo sullo stomaco che ha detto: oh signori, o impariamo a fare sto mestiere nuovo o se no ci tocca andare a lavorare. Vero. Ecco perché siamo nati tutti noi. No. E gli americani l'avrebbero chiamato The New Frontier. Avevamo di fronte a noi una prateria, bastava andare là a mettere i paletti, no? Questo è mio, questo è tuo. E anche nel fare la radio si poteva fare: signore e signori, buonasera, stiamo per presentarvi un brano di musica leggera. Questo era il modo di fare la radio. Noi abbiamo inventato un linguaggio, un atteggiamento, un modo di essere talmente spontaneo, talmente nuovo, talmente immediato, che la gente che ci ascoltava la radio, quando ci ha visto in televisione, ha detto: ma io me lo immaginavo esattamente così. Questo è valso per me, è valso per Giovanotti, è valso per, lasciami parlare dei miei amici, è valso per Cecchetto, è valso per Linus, mi tocca recitare Fiorello, posso parlare anche, poi negli ultimi momenti quando io smettevo già di fare la radio era arrivato anche Amadeus, cioè, tutta gente che poi vi siete ritrovati in altri ruoli, ma che avevano interpretato il nuovo modo di fare la radio già con un nuovo spirito. E insomma abbiamo inventato un linguaggio, dei modi di dire, dei modi di fare, i jingle, la conduzione a due, il coinvolgere il regista, tutte cose che una volta erano praticamente delle bestemmie. La di gennaio c'era ieri e ci sarà anche domani, per cui lì incollati e con tutta la famiglia, tutto il paese a dire: magari ci sono io in televisione. Gentili telespettatori, buonasera, sono Bruno Vespa ed eccoci qua al consueto angolo della posta. Ma che Bruno Vespa di Spaccio Hansen, già ne abbiamo uno di Vespa, vero? Ed è poi Bruno. Lì Gruber. Eccoci qua, amici di DJ Television. L'angolo come della posta, ci scrive una ragazza di 14 anni. Da Arma di Taggia, vicino Sanremo, zona Festival, zona balneare, Arma belle zone, belle, eh? Bellissimo. Sai cosa vuole ascoltare, vedere, ballare? Dimmi. I Technotronic. DJ Television. Adesso Daniele Bellasio mi picchia perché sto per dire: hanno creato il nostro immaginario collettivo. No, ho detto immaginario sì. collettivo. No, tra l'altro, Jerry. Mi sa che lei ha detto immaginario collettivo. Ha detto immaginario collettivo. Tra l'altro, Jerry, come. Ha detto immaginario collettivo. Jerry, come fa spesso Pippo, può dire quasi di aver scoperto televisivamente Jovanotti. Io mi ricordo quasi il giorno in trasmissione. Beh, sì, no, io ero il conduttore di quella DJ Television e Claudio era il produttore di Giovanotti, ha detto, mi fa: dai, proviamo a farlo un po' vedere sto spilungone all'appanato. Vediamo. E là, ciao a tutti, mi chiamo Giovanotti, sono un disc jockey da discoteca, mi hanno proposto di fare questa esperienza qui di DJ Television, io naturalmente mi sono tuffato e ho accettato al volo, perché potete capire, fra l'altro oggi sono particolarmente contento perché oltre ad essere il mio debutto, è il mio debutto con Video Dance, quindi un argomento che mi si addice particolarmente. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. Ti sono mancata tanto, ma adesso sono tornata, sono tutta tua e non ti lascio più. Così mi piaci, siamo proprio la coppia più bella del mondo. Altro che due cuori e una capanna. Una donna di cuore, una donna di denari, a Radio 24. Da lunedì torniamo in diretta con voi e per voi. Per parlare di soldi, risparmi, investimenti. E per investire in salute e in benessere. Cuore e denari. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Radio Tube. Siamo ancora insieme con questa puntata speciale di Radio Tube. Abbiamo un po' ripercorso la storia del varietà, ma soprattutto abbiamo con noi uno dei conduttori più amati della TV italiana. Basta il nome, Gerry Scotti. Ero chiuso in mezzo al traffico bestiale delle sei. Mi sarò distratto un attimo. Non lo faccio mai. Una cosa che a me piace molto è quando tu dici lo zio Gerry, perché lo zio Gerry è una filosofia di TV. Veramente nel concetto di zio, perché vuol dire che la TV deve essere una persona sempre presente, che ti accompagna, qualcosa ti insegna, qualcosa ti aiuta, però non è un padre o una madre severa. No. Lo zio, allo zio puoi raccontare anche la verità. Ecco, con la mamma e col papà, col nonno e con la nonna devi stare attento, sennò ti arriva qualche scapaccione. Probabilmente lo zio ti dà anche una mano se hai fatto qualche stupidata, ecco. Quindi poi io sono diventato zio un po' per forma fisica, un po' come Beppe Bergomi, ti ricordi che lo chiamavano zio, sì, poverino, che c'ha 20 anni. Sì. Aveva 20 anni e lo chiamavano zio. Ma io sono diventato lo zio prima per i miei amici e per i miei collaboratori. Hanno cominciato a chiamare zio, io ero lo zio anche quando andavamo all'oratorio a ballare. Poi i tecnici lì a Canale 5 hanno cominciato, quando fuori onda mi chiamavano, invece che chiamarmi Gerry, anche adesso, se venite alle registrazioni mi chiamano zio, andiamo. A furia di sentire così, gli addetti ai lavori hanno cominciato a chiamarmi zio e io sono diventato lo zio Gerry. Quindi però funziona. Anche noi a Radio 24 abbiamo la zia Nico. Nicoletta, vedi? Carbone la chiamo la zia Nico. Non si sa perché chiamano tutti zia. Vabbè, no, però funziona per descrivere un tipo di televisione che insomma è bella perché accompagna, mi piace. Sì, sì, questa è un dato di fatto. Guarda, io sono messo in luoghi nelle case, che lasciamo stare il salotto tipico, ma io spesso sono nel televisore della cucina. Questo è un esempio che io faccio spesso, anche sai, nelle case popolari dove la cucina è stretta, piccola, insomma dove sono cresciuto io. Solitamente c'è la foto del papa, poi in mezzo c'è la televisioncina che si vede poco bene, ma la mamma guarda quella lì perché è la sua e non si può toccargliela, e di fianco c'è il parente che è disperso in Russia, almeno così valeva fino a qualche anno fa. E allora la mia faccia automaticamente è diventata, tra Papa Giovanni e il parente disperso in Russia, sono diventato uno di casa. La mia fortuna, nonostante io nasca padano, in provincia di Pavia, vissuto a Milano sempre e esercitato sempre per il piscione, la mia vera fortuna, e di questo ringrazio il Signore, e di poter andare a Napoli, a Bari, a Palermo e di sentirmi a casa mia come se fossi a Milano. Vuol dire che questo ruolo del parente l'ho esercitato in maniera vera e non presunta e non finta. È verissimo, però, davvero vero. In questo excursus, io adesso non vorrei cambiare i vostri argomenti, vorrei raccontarvi un aneddoto che ho solo citato in trasmissione tempo fa, ma che c'entra con la vostra discussione di oggi. Perché a un certo punto nell'82, 83, non mi ricordo, voi sarete più precisi, magari la suonate anche, è uscito questo hit che diceva Video Kill the Radio Star. I Buggles. I Buggles. Allora si aspettavano tutti una moria, noi dovevamo morire tutti, quelli che vi ho citato prima, più quelli delle altre radio che non ho citato, dovevamo morire tutti. Però nel frattempo noi avevamo capito che stavamo per morire, allora ci siamo dati una mossa e abbiamo creato DJ Television, abbiamo cominciato a comparire in televisione. Un noto critico, che di professione faceva non il critico ma il cattivo, non lo posso nominare perché non è bello, anche perché è morto, non c'è più, ha scritto, eccoli, ieri pomeriggio li ho visti. erano in onda con quelle loro facce, con quelle loro camicie sgargianti e con quel linguaggio che capiscono solo tra di loro. Eccolo, adesso ho capito cosa vuol dire Video Kill the Radio Star. Questi 3-4 marmocchi spariranno per sempre dalla nostra vita e nessuno ne sentirà la mancanza. Punto. Beh, lungimirante. Ti vado a dire chi c'era in onda quel pomeriggio là. Eravamo in onda io, Fiorello e Giovanotti. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua, e non gli possiamo più chiedere i numeri del lotto. Perché... No, era uno che se ne intendeva. E invece un signore che era già un anziano signore allora, che si chiamava Beniamino Placido. L'inventore della critica televisiva italiana. Bravo, ecco. Invece lui aveva capito. E pur pungendoci e pur ogni tanto tirandoci le orecchie, aveva capito che, signori, bisognava rassegnarsi. Quello era il nuovo linguaggio, era il nuovo modo di fare il varietà che stava arrivando nelle case degli italiani. Sì. Jerry, di cosa vai orgoglioso nella tua carriera e qual è il tassello che manca? Perché quando si dice Jerry Scotti c'è sempre prima o poi dovrà far Sanremo. Tu lo faresti oppure è una... No, presta una volta, dai. Visto che mi accorgo che siete anche affettuosi, quindi bene o male mi avete seguito nella mia carriera. Non poco. Sai quanti compiti abbiamo saltato quando c'era DJ Television? Allora vi dico la verità, mi avete mai sentito parlare di Sanremo? No, è per questo te lo chiedo, perché siccome si dice sempre, cioè ogni anno si dice Jerry Scotti, ma davvero a te ha mai riguardato questa cosa o è solo una cosa che si dice? No, a me non ha mai né riguardato né interessato più di tanto. Poi sono stato via negli anni buoni, quando forse ero la persona giusta al posto giusto, ma erano gli anni in cui andava di moda farlo fare a quelli che non c'entravano niente. Adesso hanno trovato un filone di gente brava a cui farlo fare e penso che, insomma, io potrei a questo punto intervenire nella famosa terza fase, quando nel 2032 direte: e a premiare questa sera sapete chi c'è? C'è lui, Jerry Scotti, e la gente a casa dirà: ah, vedi, ma è ancora vivo, eccolo lì, guardalo. Ma allora se non Sanremo, che cosa? Che progetto ti piacerebbe realizzare? Ma guarda, una cosa che ogni tanto nominano anche gli altri, ma non tutti lo fanno bene, un vero talk show, vero... che poi non è detto che debba essere necessariamente di sera, perché di sera poi uno va a letto e dorme. Io ho scoperto che i più grandi talk show internazionali sono nati e prolificati in orari inattesi, tipo la mattina, il pomeriggio, eccetera. Quindi probabilmente nella mia terza fase c'è spazio, ne sto già parlando. Jerry, ti ho chiesto anche di cosa vai orgoglioso. C'è una cosa che ognuno di noi ha, una cosa di cui intimamente è felice. Guarda, quando facevo DJ Television pensavo di poter fare un giorno il Festival Bar. Quando ho fatto il Festival Bar ho pensato: ma chissà se un giorno riuscirò a fare un quiz, e ho fatto il Gioco dei Nove. Poi quando facevo il Gioco dei Nove ho detto: ma chissà se finisce lì, e poi all'improvviso ho fatto la Domenica. Quando ho fatto la Domenica poi improvvisamente ho detto: beh, ma può darsi che possa bastare, e mi è capitato di fare la Corrida. Poi è arrivato il Milionario, poi ho detto: beh, fatto il Milionario non farò nient'altro. Adesso ho lo stesso orgoglio con Caduta Libera. Io penso che nel piccolo, dando a Cesare quel che è di Cesare, quindi riducendo anche la risonanza delle cose che vi ho detto, aver messo qua e là delle pietre miliari o dei piccoli capostipiti in questa grande storia che voi state raccontando è un orgoglio che uno può avere. Probabilmente dei titoli che vi ho fatto, anche quando non ci saremo più noi, se ne parlerà ancora. L'ho detto, un po' di storia della televisione, io sono felicissima. Sai come lo voglio salutare, Jerry Scotti? Con una canzone, immagino. Sentiamo qua. La canzone profetica! Profetica fu! E allora, viva la vita di quelli, lunga vita a quelli che dovevano morire con l'arrivo della televisione. Siamo tutti qua! Okay. Grazie Jerry Scotti, davvero, che meraviglia averti avuto con noi. Grazie della vostra intelligente intervista, è rarissimo. Addirittura. Grazie Jerry, alla prossima, speriamo, un abbraccio. E noi salutiamo anche gli ascoltatori. Che meraviglia! Dovevamo fare la storia del varietà, abbiamo fatto la storia di RadioTube con un ospite ospite del genere. Che, ragazzi, io sono farei una standing ovation, ma poi mi allontano dal microfono, ovation. Non si può. Salutiamo. Salutiamo, ringraziamo Peter Bescapè che è stato in regia con noi. Grazie Marta Cagnola, Marta Cagnola. Grazie Daniele Bellasio, Di Bellasio. Grazie a Cristian Goldoni che fa sempre i miracoli. Per ci tutto. Ritroviamo il prossimo Ciao. Sabato. Ciao.